Eccoci qua, live più o meno, con un nuovo episodio di Alla Conquista del Gioco, il podcast italiano sui giochi da tavola condotto dai dimostratori Claudio e Pietro di Area Games Forlì. Il podcast che potete trovare tutti i lunedì sera alle 8 in primo ascolto su Radio Big World, radiobigworld.com. E che si è aperto con la nostra consueta sigla che ogni tanto mi scordo di citare, che è Happy Days del sito purpleplanet.com, sigla royalty free che però è giusto creditare per l'utilizzo che facciamo. Quindi, ora che abbiamo fatto le dovute presentazioni e i dovuti ringraziamenti, siamo pronti a iniziare questo nuovo episodio. Terzo episodio, escludendo quello speciale, contando quello speciale, quarto episodio di questa nuova stagione di Alla Conquista del Gioco. Claudio? Ti stai un pochino incartando, ma non c'è problema. Comunque, buonasera a No, tutti. io non mi sto incartando. Semplicemente dico più cose di te. No, Comunque. che tergiversi molto, ma andiamo subito alla puntata, su via. Ok, su via. Comunque non tergiverso, ho 300 cose da dire in 2 minuti. Comunque. La puntata di oggi è a tema giochi cooperativi. E con giochi cooperativi intendiamo giochi in cui i giocatori devono cooperare per ottenere la vittoria. E quindi la vittoria si ottiene tramite la collaborazione dei giocatori, la sconfitta appunto se nel gruppo non c'è la giusta alchimia, qualcuno sbaglia e non riesce a portare a termine qualche compito o quello che è. Quindi partiamo con i giochi cooperativi. Claudio, presenta pure il tuo gioco di stasera. Il Due giochi, non uno, perché tuo due è meglio di primo. uno. Il tuo primo gioco di stasera. Sì, esatto. Allora, prima di iniziare, diciamo subito una cosa. I giochi cooperativi, ce ne sono una vasta quantità sul mercato, ce ne sono veramente tanti. Tra l'altro ci sono anche quelli su Cthulhu, ovviamente, come non potevano mancare, ma non parlerò di quelli stasera. Mai ne Bensì, parleremo. no, probabilmente non ne parleremo mai, però ho scelto comunque due titoli che hanno una meccanica in più che c'è in alcuni giochi cooperativi, non sempre, ma è il traditore. Quindi cooperativi fino a un certo punto, perché ci sarà comunque sempre, ci sarà la maggior parte delle volte un giocatore che giocherà controcorrente, ma segretamente. Quindi ci sarà anche una sorta di bluff o comunque di aria molto tesa durante la partita, perché tutti sanno che c'è qualcuno che non sta giocando per aiutare gli altri, ma non sai chi è, e quindi nessuno si fida di nessuno. Quindi cooperativi con traditore. E il primo è uno dei miei giochi cooperativi preferiti, che faccio fatica a giocare, non so il perché, anche perché io credo che sia veramente un gran cooperativo, da Shadow Over Camelot. Eh sì, Un eh. gioco del 2005 di Bruno Catala, tra l'altro. Come sempre, ritorna Catala nei nostri episodi. Pubblicato dalla Days of Wonder, penso anche abbia vinto qualche piccolo premio, penso, forse comunque abbia avuto delle nominazioni. No, mi pare abbia vinto lo Spiel des Jahres nel 2006. Comunque, grande gioco, è sempre molto, molto bello dargli una rispolverata. Soprattutto io lo trovo ottimo anche per iniziare gruppi di tanti giocatori, perché mi è successo diverse volte di trovarmi in associazione con delle persone che sono arrivate all'ultimo momento che non si erano segnate a nessun tavolo, gruppi di parecchie persone. E con questo gioco, che è veramente semplice, un'oretta e mezza, 2 ore di gioco e divertimento glielo assicuri, e infatti è così che è stato, delle volte che l'ho giocato in queste occasioni. Raramente lo gioco con il mio gruppo abitudinario, perché ci sono certi giocatori che per qualche strano motivo, non so il perché, ma non hanno molta voglia di giocarlo spesso. È un gioco da 3 a 7 giocatori, quindi tiene un bel numero di giocatori. Di solito i giochi cooperativi non è detto che arrivino fino a 7 giocatori, di solito tengono o 6 o 5 massimo. Questo invece ne tiene parecchi, ed ha anche un'espansione che, se non ricordo male, dovrebbe aggiungerne uno in più. Sì, Quindi si può. scusa, Sì. Sirbe Videre che è uscito prima come promo e poi dopo come assieme all'espansione. Quindi in realtà il gioco completo con espansione è da 3 a 8 giocatori. E considerando che 3 giocatori è un numero abbastanza semplice da trovare, il gioco si può giocare tranquillamente anche in pochi. È abbastanza diverso da giocare. Se si gioca in tanti, probabilmente è molto più particolare. E il Il pregio di questo gioco è la sua semplicità, ma anche la vastità di cose che tu puoi fare nel tuo turno. Allora, prima prendiamo il gioco in sé. Il gioco è ambientato a Camelot, nel mondo di Re Artù Merlino, dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Ognuno dei giocatori è uno di questi cavalieri, che deve difendere Camelot dalle orde dei Pitti e dei Sassoni, e anche da il drago, da Lancillotto che ha tradito, e dalla strega, da Modred, da tutti i vari nemici della storia di Re Artù. E quindi tutti i giocatori avranno la miniatura del proprio personaggio, selezionato inizio partita o casualmente o a scelta, dipende come si vuole giocare, e la scheda del personaggio, quindi il cavaliere scelto dal tavolo rotondo. Ogni cavaliere ha un potere speciale personale, e in più ha delle azioni che può scegliere, segnate sempre sulla scheda, durante il suo turno, delle quali potrà compierne solo una. Però, prima di fare questa cosa, ogni giocatore nel suo turno prima deve compiere un'azione malvagia. Perché la meccanica oscura del gioco viene attivata all'inizio del turno di ogni giocatore, quindi il pro e il contro del gioco è... cioè no, cioè, diciamo che il giocatore deve sia... prima decidere la cosa negativa che accadrà e poi fare qualcosa per cercare di portare avanti la storia o comunque chiudere la partita nel migliore dei modi, a meno che non sia il traditore. Anche perché all'inizio partita vengono date le carte fedeltà di cui probabilmente una sarà il traditore, queste rimarranno segrete fino a un certo punto della partita e quindi sarà qualcuno che sa di essere traditore e dovrà cercare di far fallire le missioni degli altri giocatori. Perché in questo gioco noi abbiamo diverse planche in gioco dove noi possiamo muoverci. E ci sono delle missioni che dobbiamo risolvere per ottenere dei punteggi, che sono praticamente delle spade. Le spade andranno messe nella tavola rotonda che tiene fino a 12 spade, noi dobbiamo averne almeno una in più della metà, quindi 7 spade bianche per chiudere la partita, mentre con 7 spade nere vince il traditore e tutti gli altri cavalieri perdono. Se una missione viene risolta si ottengono spade bianche, se una missione viene fallita si ottengono spade nere. Più altri eventuali bonus e malus aggiuntivi su altre planche o che si attivano sulle schede dei vari giocatori. Ogni giocatore ha un punteggio di punti ferita segnati con un dado da tenere molto d'occhio. E adesso vediamo semplicemente le azioni, poi facciamo un piccolo riassunto delle quest. Allora, le azioni oscure selezionabili sono: perdere un punto ferita a inizio turno, aggiungere una catapulta davanti a Camelot. Davanti a Camelot possono starci fino a 12 catapulte. Appena viene messa la dodicesima, la partita è persa e vinta dai traditori, perché Camelot è stata assediata completamente. Oppure pescare dal mazzo degli eventi oscuri la prima carta e risolverla. E queste carte di solito interagiscono con le quest in modo negativo, o con i giocatori in modo molto negativo, o con le catapulte a volte. Allora, cosa possiamo fare dopo aver risolto l'evento negativo, cioè dopo aver risolto la fase negativa? Possiamo muoverci in una zona a piacimento. Se siamo a Camelot possiamo pescare delle carte bianche, che sono carte che ci aiuteranno durante le quest. Se siamo a Camelot possiamo cercare di affrontare una catapulta e distruggerla, ma se falliamo, e questo è un tiro di dado più il bonus di alcune carte, perdiamo un punto ferita e la catapulta rimane. Oppure possiamo investire delle carte su una quest per cercare di risolverla. Oppure possiamo scartare certe carte per curarci delle ferite anche. O utilizzare delle carte speciali, che sono carte particolari con certi segnalini che fanno degli effetti che di solito si attivano su tutti i giocatori o comunque ti permettono di fare azioni extra o cose che non potresti fare durante il turno. E un'altra cosa che si può fare è accusare un altro giocatore di essere traditore, ma questo solo quando ci sono almeno 6 spade in gioco o 6 catapulte in gioco. E semplicemente se quel giocatore non è il traditore, una spada bianca viene corrotta. Se invece quel giocatore è il traditore, si rivelerà e giocherà in modo completamente diverso adesso la partita, non avendo più il potere del suo vecchio personaggio, gira la scheda e cambieranno le cose che può fare nel suo turno. Quindi il gioco dura più o meno un'oretta, un'oretta e mezza. Le missioni sono recuperare l'armatura di Lancillotto, l'Excalibur e il Santo Graal, più altre missioni secondarie che danno bonus minori. Perché le tre prime citate danno anche un potere aggiuntivo al personaggio e in più gli danno anche la miniatura che rappresenta quell'artefatto. E Come gioco col traditore penso sia uno dei migliori, perché è veramente difficile capire che è il traditore, anche perché spesso ti trovi dei giocatori che sono talmente egoisti che fanno delle scelte positive solo per loro e non per gli altri, ma non sono traditori. Mentre il traditore magari gioca bene, sembra che ti stia aiutando, poi alla fine ti frega perché si è tenuto certi oggetti, perché il traditore può anche tenersi alcuni oggetti, poi armatura di lancillotto, e dopo usa lui i suoi benefici. E tu magari hai perso il tempo accusando l'altro perché giocava in modo strano. A volte addirittura i traditori muoiono affrontando catapulte, dopo dipende, succedono cose stravaganti. Il problema è che se davvero non si riesce a trovare sintonia tra i giocatori, è molto facile perdere. Cioè, se non ci si aiuta veramente a vicenda e se tu ti sospetti sul fatto che chiunque potrebbe essere traditore, è molto facile perdere il controllo delle varie quest e perdere direttamente il gioco, anche perché ci sono certi eventi che possono uccidere di colpo quasi tutti i cavalieri. Nonostante questo è molto bello, è veramente semplice, si spiega anche abbastanza velocemente, le carte sono semplicissime, le azioni ancora di più, gran bel gioco, io lo consiglio molto, non costa neanche tantissimo per quello che contiene, ha parecchie miniature. E anche dei begli artwork, dovrebbe costare sui 40 euro, penso, il gioco base. E questo è Shadow Over Camelot. Invece, parlando dell'espansione, posso dire qualcosa per sentito dire, perché comunque Shadow Over Non l'abbiamo mai Camelot provato. costa 60 euro. Ti correggo perché c'è un po' di differenza di Sei prezzo. sicuro? No, guarda. Ah, ok. Sembrava costasse di meno. E l'espansione, per sentito dire, a parte aggiungere un cavaliere in più, aggiunge anche scusate, Merlino come miniatura. E come meccanica in più nel gioco, perché Merlino nel gioco base sono delle carte che i giocatori possono scartare per annullare effetti negativi. Nel gioco Merlino può essere portato assieme ai cavalieri nelle quest, ma entra in gioco anche una nuova difficoltà che è lo spostamento tra una quest e l'altra. Mentre nel gioco base basta dichiarare il movimento, nell'espansione ci sono anche delle difficoltà nel muoversi a Camelot. Queste sono tutte cose che so per sentito dire, quindi. Non vorrei dire anch'io una cavolata, ma mi pare che aggiunga anche la possibilità di mettere due traditori in una partita. No, Mi pare. sono confermo, questa cosa non è una cavolata. Due Ok. traditori è molto pesante. Sì. Del resto, anche un solo. Però, ad esempio, prendiamo un altro famoso cooperativo con traditore che è Battlestar Galactica. Il traditore di Shadow Over Camelot può molto rompere le uova nel Gli schemi, paniere sì. molto meno di quello di Battlestar Galactica. In Battlestar Galactica puoi veramente a metà partita far perdere gli altri. In Shadow Over Camelot, a meno che non manchi una catapulta e tu la metti e dici: "Ah, ero io il traditore." Più di tanto non puoi fare, puoi tenerti alta la vita e fare cose più negative piuttosto che perdere il punto ferita, oppure tenerti in mano tutti i Graal, ma più di questo puoi fare poco altro. Ma dipende anche dal cavaliere che hai scelto inizio partita. Per esempio, se sei Sir Percival, puoi guardare prima la carta oscura prima di risolverla. È Quindi puoi anche vero. giocartela su quello. Oppure altre cose che puoi fare, puoi giocare coperte le carte delle sfide per pescare una carta bianca, ma in realtà tu le giochi coperte per non far vedere agli altri quanto è alta. Oppure Sì, ci sono varie. iniziare dei Sì. tris, delle coppie basse, anche se quello si vede, è scoperto, quindi gli altri se ne accorgono. Ci sono varie opzioni. In realtà è molto variabile il gioco, quindi è particolare per quello. Sì, no, Ok. sicuramente per i cooperativi probabilmente è il più importante, direi quasi. È veramente fondamentale come gioco cooperativo. Ok. Detto questo, andiamo avanti. Comunque aggiungo che anch'io adoro Shadow Over Camelot, è uno dei giochi più belli che ci siano, secondo me. Quindi dopo questo proseguiamo, tocca a me, porto anch'io un cooperativo gigante, ma il mio è un po' più recente, visto che Shadow Over Camelot è del 2005, Invece quello di cui parlerò io è del 2015, ben 10 anni dopo, e quindi rappresenta tutto un altro modo di vedere i giochi da tavola, perché i cooperativi negli anni si sono evoluti tantissimo, aggiungendo nuove meccaniche e possibilità, come ad esempio dimostra Dead of Winter. E il gioco di cui parlerò io è Darkness Comes Rattling, un gioco americano che in Europa non è facile trovare. Almeno in Inghilterra sì, fuori dall'Inghilterra è già un po' più difficile. E la causa di ciò è che il gioco è stato prodotto dalla Wired edizione, no, dalla Wired. La Wired Edizioni è un'altra cosa, la succursale italiana che si occupa di altri titoli. E la Wired Edizioni è famosa più che altro per il gioco. Dai, scusate, e la Wired, quella americana, non la Wired Edizioni, è famosa più che altro per il gioco di miniature Malifaux. Quindi è una casa più che altro incentrata sulle miniature. Anche se ha dalla sua anche qualche gioco di ruolo e qualche gioco da tavola, di quali Darkness Comes Rattling non è il primo che pubblicano. Ma essendo una casa di miniature, ha canali di distribuzione molto più, come dire, molto meno capillari, e comunque i suoi distributori non sono magari interessati, ad esempio, a portare anche i giochi da tavolo. Per dire, in Italia Malifaux è diventato con gli anni molto più facile da trovare nei negozi come gioco di miniature, ma avendo dei distributori che si occupano di wargame, non si preoccupano di portare anche i giochi da tavola della Wired, che quindi non hanno un vero distributore europeo. E sono disponibili soltanto attraverso a quei negozi online che fanno magazzino in America. Comunque, detto questo, passiamo al gioco, che quindi è un gioco raro. Questo volevo arrivare a dire, e quindi probabilmente no, o non ne avete sentito parlare o non l'avete visto, nonostante sia recente. Cosa troviamo in Darkness Comes Rattling? Allora, questo gioco è ambientato in questo mondo fantasy in cui gli esseri umani sono una sorta di nativi americani misti a un fantasy, quasi high fantasy. Tu, mettiamo Conan il Barbaro incontra i nativi americani, vediamola così. E in questo mondo molto animista esistono gli spiriti degli animali che popolano le terre, le divinità dei venti e gli esseri umani adorano principalmente il sole come dea madre che ha creato tutto quanto e dà la vita. Un giorno la tenebra, ovvero l'opposto del sole, questo dio malvagio, sotto forma di enorme serpente di oscurità, mangia il sole. A quel punto le tribù di umani scelgono un gruppo di guerrieri che devono mettersi alla ricerca degli artefatti magici per poter entrare incolumi dentro al serpente di tenebra e recuperare il sole. Quindi lo scopo del gioco per vincere è trovare uno dei quattro artefatti, entrare dentro al serpente e recuperare il sole prima che sia troppo tardi. Questo è quello che devono fare i giocatori. Per il resto, allora, il gioco è ambientato in questo mondo che si chiama Talil, mi è tornato in mente tra l'altro, è composto da questa plancia circolare. In questa plancia circolare troviamo al centro il mondo degli umani, diciamo Talil, il mondo neutrale, e ai suoi quattro lati le quattro terre, governate dai quattro venti. In queste quattro terre ognuna contiene tre spazi per tre carte. Ricorda molto Ghost Stories la composizione della plancia. Poi tra queste terre, tra una e l'altra, c'è un mercante. Due mercanti tartaruga e due mercanti, non ricordo come si chiama l'altro tipo. E poi attorno a tutto ciò, a chiudere il cerchio come perimetro, c'è il serpente di oscurità che quindi gira attorno alla plancia. Il serpente parte dalla testa e finisce alla coda a sonagli, e il sole, iniziando questo percorso, durante la partita avanzerà. Se arriva alla coda abbiamo perso perché è stato digerito completamente. Addio sole, addio mondo, addio vita. Tornando al gioco. Allora, abbiamo visto come funziona la plancia. Praticamente, in ogni spazio di ogni terra, ci saranno sempre attive tre carte, a meno che non le risolviamo, e quindi fino al prossimo turno ci potrebbero essere dei spazi vuoti. Queste tre carte sono delle quest che noi andiamo a risolvere alla ricerca degli artefatti. Le quest possono essere di vario tipo, ma questo non è importante in questo momento. Diciamo soltanto che a parte alcune che partono scoperte, la maggior parte saranno coperte e quindi non sappiamo cosa affrontiamo. Dopodiché, i nostri giocatori hanno un tot di punti azione che ogni turno possono spendere per muoversi nella plancia, scoprire le quest, scambiarsi gli oggetti o togliere la corruzione. Per il resto non ci sono altre possibilità. Una volta che tutti i personaggi hanno finito le azioni, si passa alla fase della notte. In questa fase, tutti i personaggi che si trovano davanti a una quest la devono risolvere. In caso ci sia più di un personaggio, si sceglie quale la risolve, l'altro farà solo da supporto e darà un eventuale bonus se c'è un bonus per avere un compagno, altrimenti l'altro rimane lì senza fare nulla. A meno che la quest non sia fallita in quel caso, e rimanga, perché alcune quest restano in gioco, altre no, in quel caso la può tentare anche lui. Detto questo, una volta tutti i giocatori davanti a una quest risolvono la quest, tutti i giocatori che si trovano su un mercante possono mercanteggiare, chi si trova nella zona neutrale centrale della mappa invece si cura. La cosa fondamentale del gioco è che tutti i giocatori ogni turno lanciano il dado nero, che anche chi non fa una quest e va mer dal mercante o rimane a Talil per curarsi. Il dado nero principalmente fa muovere il sole dentro al serpente, ha una faccia che fa muovere il sole di due, due che fanno muovere il sole di uno, una faccia vuota, una faccia che ha un effetto sulla corruzione nelle varie quest, e una faccia invece che mette una carta ombra, che vedremo dopo. Quindi ogni giocatore tira il dado, giocando in tanti il gioco finisce subito e comunque si incasina facilmente, perché 6 giocatori, che è il massimo di portata del gioco, vuol dire ogni turno vengono lanciate 6 volte il dado nero viene lanciato, del quale una sola faccia non fa niente. Ok, poi vediamo una meccanica molto interessante del gioco, è la corruzione. Durante il gioco, a causa di effetti del dado nero o del percorso del serpente, perché anche quando il sole raggiunge certi punti dentro al serpente accadono cose su Talil che ci danneggeranno, poi verrà piazzata della corruzione da un sacchetto sulle quest o sui mercanti o sui nostri personaggi. Sui mercanti, semplicemente quando arrivano tre corruzioni, il mercante diventa un mercante oscuro e invece che accettare le ossa, che sono l'oggetto più comune del gioco, per darci i suoi vantaggi, vorrà cose più dannose al party. Invece, la corruzione nelle quest, oltre a fare la stessa cosa del mercante, ovvero quando una quest ha tre corruzione viene rimossa e diventa una carta ombra da sconfiggere, le carte ombra non danno premio praticamente, sono solo quest dure da sconfiggere che occupano spazio. Che cosa stavo dicendo? Ah sì, la corruzione, l'altro effetto che fa è bloccare le facce del dado, perché le quest vanno risolte utilizzando tutti e quattro i dadi del gioco, ovvero il dado nero, che è quello che fa muovere il sole e fa altre cose negative, e un dado giallo, blu e rosso da 6 facce. Se ad esempio su una quest è presente la corruzione 3 giallo, vuol dire che se tentando di risolvere la quest, col dado giallo facciamo 3, quella faccia vale 0. Quindi noi tiriamo sempre tutti i dadi e possiamo anche avere dei rilanci a seconda delle nostre specialità. Ma più corruzione c'è una quest, più facce dei dadi verranno annullate. E in quel punto entra in gioco l'azione purificare. I nostri giocatori, i nostri personaggi sono specializzati in un colore, ci saranno due rossi, due gialli e due blu. Quella specializzazione gli permette con un punto azione di togliere la corruzione di quel colore in uno spazio dove ovviamente si trovano. Ok, detto questo, cos'altro c'è da dire? Ogni volta che entra un'ombra in una regione, la divinità di quella regione si arrabbia. Le quattro divinità che si trovano agli angoli della plancia, hanno un contatore che parte da 0 e poi va a due spazi sotto e due spazi sopra. Noi possiamo placarle con l'aiuto dei mercanti tartaruga. E in quel caso la divinità ci darà dei bonus quando siamo nella sua regione, ma se è presente un'ombra nella sua regione, lui scenderà di 1 e quindi ci darà dei malus quando siamo nella sua regione. Se lui sale, la divinità è costretta a scendere quando si trova all'ultima posizione negativa della sua plancia, la divinità scompare e lascia il gioco. Quando tutte e quattro le divinità, che in realtà si chiamano 20 nel regolamento, se ne vanno, gli umani hanno perso perché hanno perso il favore degli dei. Quindi un'altra condizione di sconfitta. L'ultima cosa da dire del gioco è che quando un giocatore muore, in realtà ritorna come spirito animale. Girando la plancia del giocatore, la sua scheda, avrà una forma spirito diversa per ogni personaggio. La forma spirito può fare molte meno cose, può combattere solo un certo tipo di quest e le ombre. E principalmente di cosa particolare è che ha un'abilità che quando è umano non ha, che sono principalmente abilità di supporto. La forma spirito ogni turno recupera uno di vita. Quando torna al massimo della vita, risuscita come essere umano. Quindi i giocatori in realtà non muoiono mai in questo gioco. Diciamo l'ultima cosa, come si finisce. Praticamente, una volta trovato uno degli artefatti, quando il sole dentro al serpente raggiunge il simbolo del corno, i giocatori possono decidere uno dei personaggi che possiede l'artefatto che entra dentro al serpente. Nella plancia ci sono solo quattro corni. Se non entro l'ultimo corno non è stato trovato un artefatto, i giocatori hanno perso perché non c'è più tempo per entrare dentro il serpente. Il corno sta a indicare nel flavor del gioco che il serpente è stato visto da qualcuno e i giocatori lo raggiungono e possono entrarci. Quando un giocatore entra dentro il serpente, a quel punto usa il suo movimento per muoversi dentro al serpente, dentro le caselle che ha già percorso il sole. In più si muove di un passo extra ogni quest che viene risolta dai suoi compagni a Talil. Ma a tutti i turni il giocatore, dentro all'oscurità, dovrà compiere una missione oscurità, che è un mazzo a parte, ben diverso da quelli che si giocano durante la partita. Alla fine, quando raggiungerà finalmente il sole, se ci riesce, dovrà risolvere un'ultima carta oscurità e se riesce il sole è salvo e la partita è vinta. Altrimenti, se fallisce, si va avanti, deve riraggiungere il sole e ritentare un'altra carta oscurità. Ok, questo è come funziona Darkness Corps Unwrathed. Parliamo dei pregi e dei difetti del gioco. Allora, come pregi, sicuramente la grafica è bellissima. I componenti, d'altro canto, sono belli a prima vista, ma si deteriorano molto facilmente. La plancia, dopo essere stata ripiegata un paio di volte, anche perché è un cerchio che si chiude a spicchi, crea delle grinze nella stampa che in alcuni punti salta anche via. E questo è veramente negativo, considerando comunque che parliamo di una casa di miniature, che fa belle miniature e lavora molto bene. E in questo gioco, tra l'altro, che poteva avere delle miniature da urlo, ha preferito optare per degli standees. Anche questi, una volta incastrati nei piedini di plastica, vanno a rigarsi. Sì, quello era un problema però che si trovava anche in altri giochi tipo Arkham Horror, che è molto facile che si rovinano quando li metti. Quando Beh, metti. diciamo Sì. Esatto. che è un problema degli standees in generale. Però la plancia veramente mi ha sorpreso negativamente, che la prima volta che ho aperto il gioco era solo per vederlo, la seconda volta che l'ho aperto per giocarlo aveva già tutte le grinze. Cioè, una volta l'avevo aperto e chiusa la plancia. Lo so. Mentre preparando dei componenti invece migliori abbiamo i cuoricini di plastica per segnalare i punti ferita che sono molto molto belli e il sacchettino per pescare i token corruzione, anche quello molto bello. In realtà il gioco dal punto di vista grafico è impeccabile, bellissimo. Dal punto di vista della stampa invece purtroppo è così. Sì, è la qualità della componentistica, cioè a livello grafico è bello, ma la componentistica è scarsa. Ma in realtà solo la componentistica stampata. Ah, anche le carte hanno il difetto di essere molto sottili e facili ad imbarcarsi, ho notato. E ne ha tantissime di carte il gioco. Quindi può essere anche un costo molto elevato imbustarlo. Invece, dopo la componentistica, parliamo delle regole. Cosa è negativo di questo gioco? Allora, la gente critica il gioco per due cose principalmente. Primo, è troppo, quando la vittoria, la sconfitta si risolvono con una semplice quest. È vero, non c'è, diciamo, una prova finale particolare come può essere Carnival Zombie, dove alla fine l'ultima notte è uno scenario tra tanti. Qui semplicemente è una quest pescata dal mazzo, tiro di dado, se ce l'hai fatta, ce l'hai fatta. Stesso difetto che dicono di Ghost Stories, che Wufang tiri un tiro di dado, se ce la fai, ce la fai, se no non ce la fai. Il finale, diciamo, non ha climax, come si dice, secondo queste persone. Invece, per me, il problema non è proprio questo, principalmente. Il problema è che è veramente difficile sto gioco, è sbilanciatissimo. È normale che un cooperativo sia difficile, ed è normale che nei cooperativi si perda più del 50% delle volte, ma Più che Darkness. altro, scusami, più che altro è un pregio perché se in un cooperativo vinci spesso non lo rigiochi volentieri. Sì, è vero. Comunque, vai pure. Sì, è vero, in effetti. Però devo dire che Darkness Comes Rattling è veramente, veramente difficile. Beh, si perde il controllo della plancia con una facilità estrema. Allora, dicono che Ghost Stories ha troppa fortuna ed è troppo difficile. Secondo me, se andiamo sulle percentuali, Darkness Comes Rattling ha un 10% in più di difficoltà di Ghost Stories. Per il resto, l'altro difetto che gli trovavano in questo momento non me lo ricordo. Chissà che cos'era. Da segnalare che per questo fattore del poco climax nel finale è stata creata una meccanica del scontro finale alternativa che si può trovare su Board Game Geek ed è aggiornata anche a pochi mesi fa. Per chi non dovesse piacere. Tra l'altro, alla fine del regolamento ci sono diverse varianti per rendere il gioco ancora più difficile. Vabbè. Dopo di questo, basta. Direi semplicemente che il gioco ha avuto sfortuna a non avere molta visibilità, No, infatti non purtroppo. si vede proprio, non si vede da nessuna parte sto gioco, non... è abbastanza Già. sconosciuto. Penso che non abbia avuto neanche una grande esposizione alle fiere da parte della Wired, e questo non aiuta. Comunque. Detto questo, Darkness Comes Rattling di Kevin Wilson costa sui 65 euro. Comprarlo fuori dall'Italia viene a costare una esagerazione di spedizione, ve lo anticipo. E quindi è molto difficile procurarselo, ma secondo me, se siete amanti dei cooperativi duri e crudi e con un po' di fortuna, quindi alla Ghost Stories, Darkness Comes Rattling può fare per voi. Ah, da segnalare un'altra cosa molto positiva del gioco, il flavor, il background è molto curato, infatti ogni quest ha la sua parte di background e ce ne sono veramente dozzine di queste e sono veramente belle. Si è impegnato veramente tantissimo a creare questa ambientazione il creatore del gioco, quindi un gioco sicuramente impeccabile dal punto di vista della storia e dei disegni. Dopo per le meccaniche, The Gustibus. Ricordo, il gioco è da 2-6 giocatori, ideale fino a 4. 5-6 diventa semplicemente attendere la sconfitta tentando di arginare le falle. Ok, mi sono dilungato tanto su questo gioco qui di Claudio, prego, tocca a te. Più che altro quanto abbiamo rimasto di tempo in regia per sapere se devo andare avanti oppure siamo in chiusura. Quanto abbiamo a disposizione più o meno di tempo, si sa? Ok, No, non si sa. No, allora io vado avanti. seriamente non lo so, quindi vai avanti. Vabbè, adesso andiamo avanti, non c'è problema. Abbiamo parlato di giochi sconosciuti, adesso parliamo di giochi già citati prima, di un gioco che ha avuto parecchio successo, se lo merita molto, è un bel, gran bel cooperativo contraddittore. Abbiamo parlato 2 secondi prima da The Winter, Crossroads Games del 2014. Gioco da 2 a 5 giocatori, in 2 probabilmente perde parecchio, ma da 3 a 5 è un buon gioco. Infatti io lo consiglierei più da 3 a 5 che da 2. Probabilmente ai 5 giocatori, perché più giocatori ci sono, più caos c'è. Se Shadow over Camelot aveva delle difficoltà nella gestione della protezione di Camelot, questo è ancora peggio. Qui è ancora più difficile proteggere una colonia da un'ottia di zombie, perché qual è il problema di questo gioco? Che ogni azione che tu fai o non fai potrebbe portare a degli eventi negativi. Mi spiego meglio. Tu puoi deciderti di muoverti e rischiare di morire, oppure stai fermo e attiri altri zombie. Questo è solo un piccolo esempio. Quindi, per dire, in questo gioco, se fai o non fai, comunque qualcosa di negativo avviene per forza. E questo già è un gran bel pregio. In più, qui il traditore è d'obbligo. Dead of Winter, giocato senza traditore, vale la metà di quello che è il gioco. Perché ovviamente il regolamento ti dice di mescolare un certo mazzo di carte per vedere se ci sono dei giocatori fedeli e il traditore, quindi potrebbe anche esserci una possibilità in percentuale che il traditore non sia in partita. Se il traditore non è in partita, la partita non è divertente, lo assicuro. Se il traditore è in partita, questo gioco è al massimo del suo potenziale. Perché ok, se non c'è, c'è comunque il dubbio, però tutti si aiutano comunque. Se c'è, appena può, si fa sentire molto in questo gioco il traditore, perché in questo gioco tu puoi anche gestire gli zombie con delle semplici azioni o con certi oggetti che magari nessuno si aspetta che hai trovato. Un giocatore qualunque può anche rubare le carte agli altri se ha certi poteri. Cioè, è un gioco veramente subdolo. Ma il problema è che a volte tu lo fai perché cerchi di rubare carte a un giocatore perché pensi che sia il traditore, ma dopo gli altri ti guardano storto perché sembri tu il traditore. Quindi questo gioco qui veramente il bluff è la base di Dead of Winter. In più c'è anche il fattore del tutti i giocatori insieme devono proteggere un certo punto e risolvere una quest principale. Che, se siamo alle prime armi, la giochiamo in modalità normale. Se siamo dei giocatori da cooperativi di base, giriamo la carta ed è in modalità difficile ed è molto più tosta. E col traditore è ancora più divertente. Allora, come funziona il gioco? Ha una valanga di regole, ma il pregio più grande del gioco, più che altro, è il numero di personaggi. Il gioco mi sembra che contenga 30 personaggi diversi, una vastità enorme. E ogni giocatore inizia con 2 personaggi, che hanno abilità completamente diverse, statistiche diverse. Ci puoi scherzare sopra, anche interpretarli, perché abbiamo Babbo Natale, per dire. Il Babbo Natale era Rakitic, ubriacone. Abbiamo il camionista che viaggia sulla sedia a dondolo e quindi non fa rumore quando si muove. Abbiamo il pirata che ruba le carte agli altri, abbiamo il cane di salvataggio che non può essere zombificato ed è il personaggio più forte nei attacchi da mischia. La cosa più bella è quando leggi cosa fanno le quest e tu sei il cane, tipo, boh, la gente ti segue per la tua leadership. Esatto, la particolarità di Dead of Winter, prima di arrivare alla meccanica, è proprio sono le Crossroads. Infatti il gioco viene sottotitolato da Crossroads Games. Cioè sono degli eventi che possono attivarsi nel turno di un giocatore, e però questi vengono letti dal giocatore dopo di lui, quindi dice fermati, hai attivato questo evento. Quindi tu non sai come attivare questo evento, potresti attivarlo durante il turno e potrebbero succedere cose positive o negative a tutti i personaggi in gioco. E quindi magari può succedere che questo cane trova un cavallo per strada e decide di cavalcarlo, Esatto. e in più anche è armato di pistola, quindi abbiamo un cane che usa una pistola che sta cavalcando un cavallo. E tra l'altro nella partita in cui è successo era anche il traditore sto cane, Cane era aveva il la schiera di traditore. umani che lo seguiva e il suo tradimento era perché lui era ingordo e quindi accumulava cibo, voleva essere più grasso e voleva rubare tutto il cibo della colonia perché era orgoglioso delle sue maniglie dell'amore, viene poi descritto nel libretto. Cioè, l'assurdità ma anche la serietà del gioco è qualcosa di unico in Dead of Winter. Più la meccanica è una cosa, anche quella è veramente unica. Cioè, noi partiamo in questa colonia che è una parte della plancia, ma sotto la plancia abbiamo altre zone della città in cui noi possiamo andare per esplorare e cercare oggetti. Il problema è che sia queste zone che la colonia possono essere circondate da degli zombie. Noi nel nostro turno abbiamo a disposizione un numero di dadi che sono uno di base più un aggiuntivo per ogni personaggio che abbiamo sotto il nostro controllo, Quindi ogni giocatore avrà dei gruppi di personaggi che agiscono sotto il suo controllo, sono vari gruppi divisi della colonia che fanno i cavoli loro, ma che in realtà dovrebbero agire per aiutarsi a vicenda, perché sarà una quest da risolvere insieme che può essere ammazzare un tot di zombie prima che finiscano i turni di gioco, oppure accumulare certe carte prima che finiscano i turni di gioco, cose così. Perché tutti i giocatori agiscono, fanno le loro azioni nel loro turno, quando tutti le hanno fatte si fa la risoluzione della settimana. E si controlla cosa accade alla colonia. Quindi, a fine del turno di tutti i giocatori, bisogna guardare quanto cibo abbiamo accumulato per sfamare i personaggi dentro la colonia. Quindi, bisogna anche giocare delle carte per mettere il cibo nella colonia. Perché, se non abbiamo cibo nella colonia, il morale inizierà a scendere, che è un'altra statistica che, se arriva a zero, tutti perdono, tranne il traditore, a volte. Poi, dobbiamo guardare se la colonia è abbastanza pulita. Perché, se non è abbastanza pulita per le carte che abbiamo scartato, che vanno nella spazzatura, il morale scende di uno. Qua dobbiamo risolvere una crisi, cioè c'è un evento negativo che si attiva a fine della settimana, in cui noi dobbiamo mettere delle carte coperte durante il nostro turno richieste da quella carta per non far attivare l'evento negativo. E quindi qui il traditore può mettere delle carte sbagliate per incrementare il fallimento. Il problema è che vanno coperte queste carte, quindi tu non sai chi ha messo la carta sbagliata e ha fatto attivare la crisi. Poi si aggiungono gli zombie a seconda di quanti personaggi sono in gioco, in che zone si trovano. E poi la round scende di 1 e si gira la nuova crisi della settimana e si ricomincia il turno. I giocatori nel loro turno possono muovere di un passo ogni loro personaggio, possono usare i vari dadi per combattere zombie o cercare o attivare abilità speciali, oppure per scartare carte dalla spazzatura, o richiamare degli zombie e spostarli da una zona all'altra. Ci sono tante variabili, ma la cosa più divertente sono sicuramente le crossroads. Che alcune sono veramente assurde, per esempio quella del Babbo Natale, che se si trova in gioco attiva un evento ultra negativo dove lui vuole la birra, cioè vuole il vino, sì, la birra, la bottiglia, La e se tu non bomba. gliela dai, vuole la bomba, sì. Se tu non gliela dai, lui va nella locazione Emporio e fa quattro segnalini di rumore che attireranno molto probabilmente quattro zombie e morirà probabilmente quel poveraccio. Se invece gliela dai, tipo abbassi il morale, ferisce qualcuno, cioè comunque fa sempre qualcosa di negativo. Sì, mi sembra che fa una rissa con qualcuno se gliela dà. Esatto, no, no, se gliela dai va all'Emporio ubriaco, se non gliela dai fa la rissa, esatto. Però Forest Plum, che è questo Babbo Natale, di positivo ha il suo potere, che se tu a inizio turno, prima di fare comunque altra azione, lo togli dal gioco, il morale aumenta di uno perché tutti sono felici perché lui se n'è Devi mandarlo via dalla andato. colonia. Quindi ci sono dei pro e dei contro, lui è un personaggio fantastico se è il traditore. Poi dopo dipende anche dipende da tante cose. La particolarità di The Winter è che ogni giocatore ha un obiettivo personale da risolvere, quindi i giocatori che non sono traditori devono completare la quest che tutti sanno, più fare altre cose che però sono segrete per vincere la partita. Il traditore deve fare fallire la missione e far arrivare il morale a zero, più fare altre cose. Quindi non è detto che se il morale arriva a zero il traditore abbia vinto. Infatti a volte anche lui è obbligato nel corso della partita a cercare di aiutare gli altri perché ancora gli mancano certe condizioni di vittoria. E quindi non si sa mai, molto spesso non vince nessuno, quindi. E in più c'è anche qui la cosa dell'accusare qualcuno di essere traditore ed esiliarlo. Se tu esili un giocatore, quello dopo non potrà più entrare nella colonia e agirà per conto suo e cambierà anche obiettivo di condizione di vittoria. Quindi ci sono anche qui tante occasioni, i personaggi sono stupidissimi, ma anche seri, le crossroads a volte sono serie, a volte sono idiote, a volte sono negative, a volte positive, a volte non combinano praticamente nulla. Abbiamo un personaggio promo, che è il boscaiolo, che anche quello è necessario perché la sua crossroads è una delle più divertenti e così via. Va bene, io chiudo qui con Deadwinter anche perché tra poco mi sa che staccheremo. Sì, ok, perfetto. Allora, Dead of Winter, distribuito in Italia dalla Raven Distribuzioni, il gioco originale della Playdead Game, costa una sessantina di euro e adesso è uscita anche la nuova versione che è Dead of Winter, The Long Light, sì. che è sia un'espansione che un gioco standalone, quindi può essere giocato da solo oppure usato per Praticamente espandere il gioco. contiene quasi tutte le stesse cose del base, cambiano alcune illustrazioni, i personaggi sono tutti nuovi e aggiunge nuovi tipi di zombie e una meccanica in più che se tu vieni esiliato diventi il capo di una banda di ribelli, una cosa simile. Diciamo Ok. che è come il gioco base con ovviamente certe differenze e delle meccaniche in più. Ok, perfetto. E Detto questo, passiamo all'ultimo gioco così possiamo chiudere. Il mio ultimo gioco è molto veloce perché è un giochino sostanzialmente da mezz'oretta. Ed è Samurai Spirit di Antoine Bauza, di cui abbiamo già parlato tante volte, essendo il mio autore preferito. Allora, Samurai Spirit semplicemente è un gioco quasi filler che tenta di riproporre la storia del film I Sette Samurai di Akira Kurosawa. Solo che, anzi, lo ripropone in realtà perché i nomi dei sette samurai sono gli stessi. Solo che in questo gioco i sette samurai possono andare in uno stato d'ira che li trasforma in animali antropomorfi. Allora, come funziona il gioco? Praticamente ci sarà, come nel film, il villaggio da proteggere dai banditi. Questo villaggio contiene tre statistiche da proteggere: le case, le famiglie e le barricate. Quando i banditi riescono a sfondare, attaccheranno prima le barricate e poi le case e le famiglie a seconda di certe condizioni. Praticamente in questo gioco ognuno di noi sceglierà uno dei sette samurai e ognuno ha un'abilità diversa e un'abilità diversa usabile tutti i turni e un kia diverso. Il kia è la furia, diciamo, l'attacco speciale che fa il samurai quando riempie la sua barra, Allora, la meccanica principale del gioco è il push your luck e ricorda molto il blackjack. Praticamente si pesca da un mazzo finché non si dice basta. Allora, dovremmo resistere a tre ondate di banditi. Ogni ondata viene creato il mazzo dei banditi. Nella prima ondata ci saranno solo banditi normali, dalla seconda ci sarà anche un luogotenente, dalla terza anche un generale, il capo dei banditi. I luogotenenti e il generale vengono pescati da un mazzo apposta. Praticamente durante il turno il samurai deve estrarre dei banditi dal mazzo. Almeno uno se decide di combattere, altrimenti può non combattere e dare la sua abilità a un altro giocatore, che questo si chiama dare supporto, oppure può usare la sua abilità su se stesso. Se decide di combattere, gira un bandito dal mazzo. A quel punto lo può mettere alla sinistra della sua scheda. Questa parte della scheda, che è la parte della difesa, può contenere tre tipi di banditi: un bandito che ha il simbolo della capanna, un bandito che ha il simbolo delle famiglie e il terzo simbolo in questo momento mi sfugge. Mentre altrimenti può mettere i banditi dalla parte dell'attacco. La parte dell'attacco è un indicatore che raggiunge un numero che indica il kya, ovvero il momento della furia di quel samurai. Noi, come nel blackjack, dobbiamo raggiungere quel numero senza sballare, quindi dobbiamo raggiungere quel numero preciso. Ah, il terzo simbolo era il cappello, ecco cos'era. Quindi noi giriamo un bandito e possiamo metterlo a seconda del suo simbolo in uno dei tre spazi della difesa se sono liberi. Quindi durante un'orda di banditi noi abbiamo a disposizione tre da poter mettere in difesa: uno famiglia, uno capanna e uno cappello. Una volta che questi tre saranno pieni, potremo metterli solo in attacco. In attacco non guardiamo più questi simboli, guardiamo il numero del bandito perché hanno anche un numero. Il numero fa salire la barra del nostro samurai e a quel punto il nostro scopo è raggiungere il suo numero di kya. Possiamo anche girare. No, mi sbagliavo. Solo Kikuchiyo ha l'abilità di poter combattere due volte durante il turno. E, salendo nella barra, dobbiamo raggiungere il numero specifico del nostro samurai. Se ci riusciamo, lui farà la sua abilità, come descritta in basso nella scheda, e poi eliminerà tutti i banditi dalla parte dell'attacco della sua scheda. Quindi quelli lì verranno eliminati. Se invece sballa. Ad esempio, prendiamo un esempio, Kikuchiyo deve arrivare a 10 per fare il kya. Se ottiene un 11 con i banditi che ha accumulato nella parte dell'attacco della sua scheda, Kikuchi ha sconfitto. E quindi per questa orda, questa ondata di banditi, non aiuterà più il gruppo. Dopodiché, i samurai possono prendere delle ferite. Quando un samurai subisce una ferita, la prima è un token che verrà messo sulla scheda. Alla seconda ferita, la forma umana perde, il token della ferita e diventa la forma animale. A questo punto, se la forma animale viene ferita, o riottiene il token. Se viene ferita nuovamente, è morto. Quindi, sostanzialmente, abbiamo un totale di 4 ferite, delle quali la seconda si trasforma in animale e la quarta ci uccide. L'animale ha l'abilità e il ki ha leggermente più forti. Poi, un'altra cosa da dire è il fuoco. La ferita si ottiene dall'ultimo bandito che abbiamo nella pila dell'attacco. Nella pila dell'attacco, l'ultimo bandito che è stato posizionato può avere un'abilità che attiva tutti i turni, che può essere farsi una ferita, appunto. Se appunto ha questa abilità, tutte le volte che iniziamo il turno e lui è sulla cima del nostro attacco, ci becchiamo un danno. Poi, un'altra cosa, i banditi possono finire nella pila degli infiltrati. La pila degli infiltrati va coperta all'entrata del villaggio e quando l'orda viene risolta, viene finita, perché è finito il mazzo dei banditi di quest'orda, si girano tutti gli infiltrati e tutti quelli che hanno il simbolo del fuoco bruciano una barricata, se c'è, altrimenti bruciano una capanna. Una capanna bruciata viene girata e fa un altro effetto. In più, a fine orda, i giocatori devono aver coperto sia il simbolo famiglia che il simbolo capanna, altrimenti ci saranno dei malus. E basta, mi sembra che non ci sia altro da dire di Samurai Spirit. Semplicemente bisogna resistere 3 orde e fare sopravvivere almeno una capanna, almeno un membro della famiglia. Se nella plancia non ci sono più né membri delle famiglie né capanne, abbiamo perso. E quindi basta. Da dire c'è cioè che la meccanica principale del gioco appunto è un push your luck che ricorda il blackjack. Sì, abbiamo parlato di due giochi contraddittori. Tu hai parlato di due giochi che si assomigliano per questa cosa del fatto che se un personaggio muore diventa un animale. Sì, è Quindi anche vero. qui c'è una Effettivamente similitudine, sì. non ci avevo pensato a questa cosa, sai. Comunque, Samurai Spirit costa all'incirca 22 euro, 23 euro, è della FanForge e si dovrebbe trovare abbastanza facilmente nei soliti siti o nei negozi specializzati. Ok, con la puntata, scusate, sui giochi cooperativi abbiamo chiuso, anche se ne faremo altre perché i giochi cooperativi ne conosciamo a bizzeffe e non abbiamo parlato neanche di cooperativi con la meccanica del giocatore che gioca contro il gruppo. Cioè, non del traditore, del giocatore che controlla il gioco. Vabbè. Ah, sì. Tipo Mansion of Madness, prima edizione, che giochi Sì, leggeri. o Ghost Stories con tutte le espansioni, o Pandemic con l'espansione del bioterrorista. Comunque, siamo arrivati in chiusura. I soliti saluti e ragguagli. Allora, ci trovate tutti i venerdì sera dalle 9 al Bar President in Viale Roma, zona Ronco, Forlì. Associazione Area Games, ludoteca gratuita dove potete venire a giocare con noi. Mettete mi piace sulla pagina Facebook di Area Games Forlì, sulla pagina Facebook di Radio Big World. Supportate Radio Big World che ci dà lo spazio per questi programmi. E poi presto pubblicheremo anche il calendario degli eventi di Natale di Area Games e vi possiamo assicurare che abbiamo una marea di eventi. Un sacco di cose speciali e nel prossimo episodio ve le elencheremo tutte. Per il resto, questa puntata va in onda lunedì, quindi dopo aver sentito questa puntata, cioè la prima che sentite, potete recuperare gli episodi precedenti sulla pagina alla conquista del gioco di Radio Big World, dove c'è il player di SoundCloud, dove ci sono tutti gli episodi disponibili. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Un saluto. Grazie, buonanotte. Buonanotte.